Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Con il primo appuntamento settimanale insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre torniamo in aereo, torniamo a parlare di voli, o almeno ci proviamo, ci hanno provato due persone, non ci sono riusciti e hanno però ottenuto un rimborso. C'è riuscita proprio l'Adico con uno dei suoi legali, l'avvocato Alessandro Sartirana, che è al telefono con noi. Benvenuto avvocato. Grazie, buongiorno. Dunque, un caso che purtroppo non è frequente, insomma, di cancellazioni, di overbooking, booking, di ritardi, poi faremo anche tutta la casistica. Il caso di specie cosa riguardava? Il caso di specie riguardava una cancellazione di un volo Venezia a Boston, quindi tratta internazionale, cancellazione effettuata dal vettore aereo senza il rispetto del preavviso previsto nella normativa europea. Ecco, lei ha seguito direttamente il caso, qual è stata la procedura e anche quanto tempo ci è voluto, giusto per dare un'indicazione? Essenzialmente abbiamo cominciato in via stragiudiziale a chiedere il risarcimento previsto dalla legge e direttamente al vettore. Il vettore non ha risposto in maniera positiva e quindi siamo stati costretti a rivolgerci al giudice di pace competente per territorio. Il procedimento in realtà è durato relativamente poco tempo, è durato meno di un anno, come tempistica della giustizia possiamo dire che è stato breve, e si è concluso con una sentenza di condanna nei confronti del vettore aereo al pagamento di un indennizzo di 600 euro a ciascuno dei due viaggiatori che hanno subito il disservizio. Con una spesa di biglietto che era stata di quanto? Una spesa di biglietto che era stata originariamente di circa 300 euro. Quindi ci hanno guadagnato? Ci hanno guadagnato, anche perché consideriamo che poi il volo è stato sì cancellato, ma è stato riproiettato una fascia oraria differente, quindi i passeggeri comunque hanno goduto del servizio, anche se naturalmente non alle condizioni inizialmente previste. Certo, qui è bastato appunto la documentazione, in questo caso che vi è stata presentata era la prenotazione, insomma, spieghiamo anche a chi dovesse capitare a qualcun altro che cosa serve, insomma, per chiedere un rimborso. In definitiva raccomando naturalmente a chi dovesse subire un disservizio a causa di un vettore aereo, che sia ritardo prolungato, che sia cancellazione del volo, di conservare la documentazione. Nel caso di specie si tratta del biglietto aereo o del titolo comunque di viaggio stampato in caso di acquisto online, e la documentazione relativa o alla cancellazione o alla riproiezione del volo a un orario differente. Che non era quello che si voleva prendere. Che non era quello originario. Questo è il caso anche appunto poi più problematico di cancellazione del volo, ma con gli aerei, con i vettori aerei, insomma, sappiamo che problematiche purtroppo ce ne sono tante, e credo la più diffusa sia lo smarrimento del bagaglio o il danneggiamento. In questo caso è necessario che chi rileva il danneggiamento o lo smarrimento del proprio bagaglio si rivolga allo sportello presente in ogni aeroporto per sporgere formale reclamo. Anche in questo caso, qualora non venisse soddisfatto in pieno a livello economico per quanto riguarda i danni subiti, sarà necessario adire il giudice di pace. Torniamo al caso di cui ci parlavamo all'inizio, cioè questo rimborso appunto di 600 euro per ogni passeggero per questa cancellazione. È una novità? È un caso che può fare scuola, può fare giurisprudenza? In realtà sì, è importante, perché il giudice di pace comunque pacificamente riconosce il diritto al rimborso e all'indennizzo. La legge non è recentissima, in quanto è stata introdotta da una normativa europea ancora nel 2004 e recepita in Italia con un successivo intervento legislativo del 2006. Tendenzialmente il problema è che le compagnie aeree spesso non adempiono spontaneamente alle normative di legge, ma costringono il consumatore o comunque l'utente, il viaggiatore, a rivolgersi al giudice per ottenere giustizia. Ecco, in questo caso, insomma, è andata bene una volta tanto ai consumatori. Le risulta che anche all'estero succeda così, cioè che ci siano questi rimborsi, o le compagnie estere, visto che questa non l'abbiamo nominata, ma è una compagnia italiana che ha avuto questo problema, che questa procedura sia diffusa anche in altri paesi? La procedura è diffusa in tutta Europa, in quanto il diritto al risarcimento, all'indennizzo in particolare, è garantito a tutti i viaggiatori per i quali ci sia una partenza o un arrivo all'interno di uno scalo europeo. Quindi comunque è una procedura che tutela il viaggiatore per qualunque viaggio dovesse compiere all'interno dell'Unione Europea. Questo vale per qualsiasi tipo di prenotazione, cioè anche se io prenotassi un volo adesso per fra sei mesi o per la fine dell'estate? Assolutamente sì, qualsiasi quindi... tipo di prenotazione, il vettore aereo dovrà, in caso di disagio o comunque di cancellazione o ritardo del volo, dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele opportune e soprattutto dimostrare di aver messo nelle condizioni il viaggiatore di ricevere tutte le informazioni in un tempo che solitamente è di almeno due settimane antecedente alla prenotazione. In sede di dibattito davanti al giudice, la compagnia che motivazioni ha portato a propria difesa? In realtà la compagnia riteneva applicabile un'altra normativa, però sinceramente è stata una linea difensiva che il giudice fin da subito ha dimostrato di non applicare, di non voler rendere soprattutto concretamente applicabile al caso di specie. Bene, allora è una buona notizia insomma per i viaggiatori, quindi se avete bisogno in caso di volo aereo tenete la documentazione e poi eventualmente rivolgetevi all'Adico che vi può dare supporto anche dal punto di vista legale. Grazie all'avvocato Sartirana, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.